passare vicino al mio campo. Ero un ragazzino, stavo lì a giocare. Erano 300, erano giovani e forti, andavano al fronte col sole negli occhi e cantavano, cantavano tutti in coro. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Avrei dato la vita per essere con loro. Dicevano domani, domani torneremo. Aspettai domani per giorni e per giorni, col sole nei campi e poi con la neve. Chiedevo alla gente quando torneranno. La gente piangeva senza dirmi niente, e da solo io cantavo in mezzo ai prati. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Chiusi gli occhi e capì, e quella notte in sogno io li vidi tornare.